E già abbiamo conosciuto il palcoscenico del teatro del Baraccano, tra musica, contenitore assolutamente importante per quella che è una diffusione culturale, per quella che è in questo caso una memoria. E saranno tre appuntamenti da giovedì 25 gennaio fino a sabato 27 gennaio, giornata della memoria per la Shoah con Sassolino. È una produzione teatro del Baraccano Persefone, la baracca Testoni Ragazzi, in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna. E intanto do il buongiorno al direttore dell'orchestra del Baraccano, Giambattista Giocoli, qua con noi. Buongiorno Giambattista, bentornato. Buongiorno, grazie. Buongiorno a te e agli ascoltatori, grazie. Iniziamo allora la nostra conversazione per quanto riguarda questo triplo appuntamento tra spettacolo di teatro e musica per Sassolino. E quali sono, appunto, come vengono affrontate queste tragiche realtà storiche? Ci puoi accompagnare presentando così in linee generali lo spettacolo, Giambattista? Sì. Sì, Sassolino appunto è il titolo dello spettacolo, ma è anche il titolo dall'albo illustrato da cui è tratto lo spettacolo. L'albo illustrato appunto è un libro scritto da Marius Marcinkevicius ed edito in Italia nel 2022 da Caissa Italia, una casa editrice bolognese che porta delle vere chicche in Italia. Io ho ricevuto in dono questo libro proprio durante la pandemia, e una delle poche cose positive della pandemia è che si aveva molto più tempo per leggere, per studiare nuovi testi, e da questo libro ho subito capito che si potesse creare uno spettacolo, e soprattutto uno spettacolo di teatro musicale, che è la nostra attività principale. E un po' l'antefatto è questo: era l'estate del 1943 e Vilnius, la capitale della Lituania, era occupata appunto dai nazisti, e come in tutte le capitali dei paesi occupati dai nazisti si creavano dei ghetti, cioè questi quartieri il più delle volte nel centro delle città, in cui venivano letteralmente rinchiusi in gabbia gli ebrei. Ricordiamo anche che Vilnius era famosa anche per essere la Gerusalemme del Nord, perché praticamente su 200.000 abitanti circa la metà erano ebrei. Quindi, diciamo, da questo libro abbiamo pensato di creare uno spettacolo, e ho proposto subito l'idea a Bruno Cappagli, che è il regista della compagnia La Baracca Teatro Testoni, che subito ha raccolto l'idea. E su mia indicazione ho proposto anche le musiche molto particolari, di cui magari potrò dire qualcosa, e da qui è nato questo spettacolo che insomma funziona molto bene. Dico che funziona perché ha già debuttato nel 2023, quest'anno lo riproponiamo perché ha avuto molto successo, e perché la giornata della memoria deve essere una ricorrenza fissa, ma anche perché allo spettacolo quest'anno abbiamo aggiunto una bellissima novità, e cioè abbiamo prodotto anche una mostra appunto sia sul libro, sull'album illustrato, ma anche sullo spettacolo, che viene allestita a Palazzo D'Accursio in Manica Lunga. Sì. Inaugurerà il 22 e sarà aperta fino al 5 febbraio, mentre lo spettacolo, come giustamente dicevi tu, viene messo in scena nella sala del Teatro del Baraccano in via del Baraccano 2. E quindi la musica sarà appunto ispirata a dei compositori lituani? Anche qui ti chiedo un po' di nozioni per quanto riguarda, o saranno scritture originali? Raccontaci un po'. Sì, allora no, le musiche, ovviamente, come sempre succede nel nostro lavoro, non sono mai un accompagnamento musicale, ma sono un secondo piano narrativo. Non a caso i musicisti, il mio ensemble da me diretto, i musicisti, dicevo, nel mio lavoro sono sempre in scena e sono essi stessi dei personaggi, cioè noi di fatto siamo in costume, reagiamo alla regia, interagiamo con gli attori in scena, e perché siamo di fatto i musicisti del ghetto e del ghetto ebraico. Infatti nei ghetti la vita era durissima, complicatissima, e chi usciva dal ghetto non rientrava più, però c'erano comunque dei momenti che gli ebrei si sono sempre ritagliati, soprattutto per la loro forte tradizione culturale e la loro forte tradizione musicale. Il protagonista stesso della storia, Eitan, un bambino, era esso stesso un violinista, ecco per cui i musicisti in scena sono dei personaggi e il violinista ovviamente ha una parte importantissima e simbolica. I musicisti non sono lituani, ma ho fatto una scelta. L'ispirazione, perché ci sono dei grandi musicisti lituani, e allora pensavo ci fosse un'attinenza. L'attinenza, il legame è molto forte perché i musicisti sono stati scelti dalla tradizione ebraica, quindi okay. Ho scelto due musicisti molto diversi tra loro, ma che hanno dei dati biografici in comune. Uno è Arnold Schoenberg, di tradizione, di origine ebraica. Arnold Schoenberg, nato a Vienna nel 1874 e morto a Los Angeles nel 1951, quindi un musicista che viene detto del Novecento storico, quindi l'attività principale nei primi decenni del Novecento. E Darius Milhaud, invece francese, è nato un ventennio dopo, quindi nel 1892 in Francia, anche egli ovviamente di origine ebraica, ed è morto a Ginevra nel 1974, quindi spostato leggermente di 20 anni. Le loro musiche sono assolutamente diverse, perché diversi sono i momenti in cui sono stati usati, proprio perché la musica è sempre un secondo piano narrativo. Sono stati usati Schoenberg nei momenti più drammatici e più enfatici e più concitati, mentre le musiche di Mio sono state usate nei momenti di serenità e soprattutto nel finale, dove c'è un messaggio, non voglio svelare, ma c'è un messaggio comunque di speranza e di sopravvivenza. E i dati biografici in comune sono, oltre a essere appunto di origine ebraica, è che entrambi, come molti ovviamente musicisti e artisti di quel periodo, sono stati costretti a fuggire dall'Europa ed andare in America. Arno Schoenberg è fuggito è viennese, fuggito dall'Austria nel 1933, quindi proprio nel primo anno in cui Hitler è salito al potere. Invece Mio, essendo francese, è stato costretto a fuggire nel 1940, cioè quando la Germania ha occupato la Francia. L'altro dato simile che mi ha molto incuriosito è che questi due brani usati, cioè la Camer Symphony di Schoenberg e la Création du Monde di Mio, sono stati composti da entrambi quando avevano 30 anni, quindi diciamo la maturità artistica era molto simile, e quindi anche la potenza drammaturgica delle musiche l'ho trovata molto simile, pur nella loro diversità evocativa, appunto usata in modo diverso nello spettacolo. Certo, e ricordo, gli appuntamenti saranno giovedì 25 gennaio alle ore 10:15. È mattutino questo appuntamento o è un errore nel comunicato stampa? No, è giustissimo, proprio perché questo spettacolo ovviamente ha delle scenografie videoproiettate di un album illustrato per ragazzi, quindi ha una grafica adatta molto ai ragazzi, ma è uno spettacolo adatto a tutti, proprio perché parliamo di un eccidio. E appunto parliamo di una delle più grandi tragedie dell'umanità, che è stata la Shoah. Però appunto leggevi bene l'orario mattutino, perché facciamo ben tre mattinee, 25, 26, sì. 27 alle ore 10:15. Ovviamente sono sold out da tempo, perché le scuole che lo hanno visto l'anno scorso hanno voluto portare altre classi, quindi fin dall'autunno hanno prenotato questi spettacoli. E poi come stavi dicendo tu, scusa se ti anticipo, ci saranno due serali, il 26 sì. gennaio alle 20:30 e il 27 gennaio sabato alle 17:30. Anche per queste due repliche siamo quasi pieni, ci mancano pochi posti, ma prevediamo un sold out, un giusto sold out anche in queste due repliche per gli adulti. Concludo con la mostra In manica lunga del Palazzo da Curzio dal 22 gennaio al 5 febbraio. Io ti ringrazio tantissimo, appuntamento al Teatro del Baraccano per Sassolino, che ricordo è uno spettacolo di teatro e musica per il Giorno della Memoria, scritto e diretto da Bruno Cappagli. E ti auguro una buona vigilia di weekend, Giambattista. Avremo modo di sentirci. Grazie, ti ringrazio di questa occasione ancora una volta e ringrazio gli ascoltatori. A presto, ci vediamo a teatro. Ciao. Buongiorno. About the altar as I was kneeling upon Christ's passion as I was and my sore heart bleeding. Oh, Donald Oak, can't you feel me near you? Why don't you tremble the way that I do? I'll be your lantern to show you truth plainly. And if you are set on, I'll defend you bravely. Oh, wild as a crow is this heart within me. Ci avviciniamo alla giornata della memoria e volevo puntualizzare e ricordare che seguirò con il Breakfast Club tra letteratura, arte e teatro quello che sarà proposto. E in più, importante, il mio pensiero, non perché sia il mio pensiero, ma perché è un filo conduttore del Breakfast Club, visto il momento tragico che stiamo vivendo. Chiunque faccia strumentalizzazione del passato e di questa cruenta realtà che è stata la Shoah per giustificare il genocidio che è in atto, disonora i morti del passato e disonora i morti del presente. Questo deve essere molto chiaro. You took what's before me and what's behind me. You took east and west when you wouldn't mind me. Sun, moon and stars from my sky you've taken. And the God above, or I'm much mistaken. Anthony Coleman per la Tzadik Record, il brano è The Duke, ci porta a conclusione in quanto sono già le 8:48 minuti, seppur qualche inciampo con CD che saltellava qua e là. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle 11:30 con un puntato di passaggio del Jazz Live di questo inizio 2024, poi ovviamente mattiniere e mattinieri sui 103.1 Breakfast Club ritorna con i magazine del lunedì. Tributo a Dave Brubeck. Ma a sua volta il titolo The Duke per Duke Ellington. e un buon ascolto sui 103.1. A tra poco l'EDP enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, dopodiché avremo, come ho detto, il palinsesto mattutino del venerdì che procede con quello che è il Jazz Live, e un buon ascolto dal vostro William Piana, un caloroso abbraccio e un buonissimo weekend. Ciao a tutte, ciao a tutti.